Libia è un massacro, il regime non si arrende alla protesta scoppiata ormai una settimana fa e continua la sua opera di repressione sanguinaria. Dopo le centinaia di vittime di ieri sarebbero ricominciati oggi, secondo l'emittente televisiva Al Jazeera, i bombardamenti contro la folla in piazza a Tripoli. Estesi e sistematici attacchi contro la popolazione civile potrebbero essere assimilati a crimini contro l'umanità, ha dichiarato a poche ore dalla riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sull'argomento l'Alto Commissario ONU per i diritti umani, Navi Pillay, un avvertimento rimasto per ora inascoltato. Dalla capitale le notizie in arrivo sono frammentarie, il regime ha interrotto le comunicazioni anche all'interno della stessa Libia. A Bengasi, che insieme a una decina di altri centri urbani sarebbe ormai nelle mani dei dimostranti, abbiamo raggiunto telefonicamente Ahmed bin Taher, chirurgo nel principale ospedale della città. Yesterday in the night there was rumors that Benghazi will be exposed to airstrike from Gaddafi regime. Ieri notte c'erano voci che Benghazi sarebbe stata bombardata dagli aerei inviati dal regime e la gente era impaurita, la paura si è diffusa per tutta la città, la gente si è riunita a pregare tutta la notte, per fortuna non è successo nulla, la città adesso è controllata da comitati di intellettuali che sono le stesse persone che avevano chiamato la gente a manifestare, adesso hanno creato un comitato che sta cercando di organizzare la sicurezza della città e i servizi pubblici, il comitato si riunisce nella sede del tribunale che è il luogo davanti a cui avvengono le manifestazioni. C'è una manifestazione in corso anche adesso? Sì, la gente sta lì tutto il tempo, è come in piazza Tahrir al Cairo, la gente va e viene, siamo migliaia. Ieri abbiamo festeggiato il fatto che Benghazi adesso è una città libera dal dittatore Gheddafi. I miliziani del regime sono scomparsi e probabilmente sono asserragliati in un compound fuori città, ma mi sono arrivate notizie che molti militari hanno disertato e ora appoggiano la protesta qui a Benghazi. Il colonnello Gheddafi ha parlato per la prima volta dallo scoppio della rivolta la notte scorsa, un messaggio di appena 22 secondi in cui il leader libico ha smentito le voci sulla sua fuga, ma il regime non gode ormai più di nessun sostegno, condanne alle violenze sono arrivate da tutta la comunità internazionale, mentre il popolo manifesta a uno si sfilano anche tutti gli uomini forti del regime, brutto segno per Gheddafi come spiega lo storico Angelo Del Boca. Quando uno degli uomini come il rappresentante della Libia al Cairo, alla Lega Araba, come Abdel Monem Al-Houni, si rimette, si associa ai rivoltosi, beh, questo è un segno terribile, perché questo è uno degli uomini che ha fatto la rivoluzione con Gheddafi, è uno dei personaggi centrali del regime. E poi quando gli aeroplani invece di andare a bombardare la folla ripiegano e atterrano chiedendo asilo politico a Malta, è un altro segno spaventoso. Un altro segno è il fatto che tutte le tribù della montagna si siano dissociati e anzi abbiano detto delle cose a mio avviso tremende, come quello di chiedere ai giovani di combattere, ai militari di disertare e a Dio di portare all'inferno Gheddafi. Queste sono le parole degli anziani delle tribù della montagna. Cioè quando c'è questo corollario di avvenimenti è una questione di ore, non di giorni, di ore. La crisi libica sta portando ad un progressivo stop delle forniture di gas, lo riferisce l'ANSA, che cita fonti qualificate di settore che spiegano come la situazione degli approvvigionamenti sia complicata. Poco prima il sottosegretario allo sviluppo economico, Saglia, aveva sottolineato che le forniture non sono interrotte, ma la situazione è molto complicata, la tensione è alta e l'Italia, ha detto Saglia, è pronta a usare gli stoccaggi ordinari di sicurezza. Guai arrivano anche sul fronte petrolio, il prezzo continua a salire ai massimi da più di 2 anni ad oggi, l'OPEC ha detto di essere pronta a intervenire se sarà necessario, anche oggi le borse sono tutte in forte calo per la situazione in Libia.